Problema. Perché ha quel microfono a saponetta piccolo, tipo di 5555. Vabbè, non ho sentito nessuno, c'era un po' di propagazione oggi, roba inglese, di tutto c'era, però da Sassari niente. Io sto scaldando la macchina del caffè e sono in procinto di farlo, quindi vediamo un po', aspettiamo. No, il tempo magari era buono e magari è quello che la propagazione c'è stabilita di nuovo come dovevo. Sì, oggi era una bellissima giornata, sole a oltranza, però vabbè, io devo uscire domani, oggi vi riposo, di turno. Oggi era bello andare a mangiare il ricci, una bottiglia di vino, un po' di pane e mangiare ricci al sole. Che bei tempi, c'ho la mutta che ormai sarà da buttare. E piuttosto, ma i ricci si possono prendere? C'è un privato, li può prendere? Perché avevo sentito che era, non so, tutto vietato per ripopolare, non so se sia giusto, se a zone o com'è. Mi dovrei informare, ma sino a poco tempo fa potevi prenderne solo una certa quantità, non potevi superare quella quantità. E quanti erano? 40, 30? Una cosa del genere mi ricordo. Sì, altro che 40, lasciamo perdere. Parlo di anni, secoli fa, poi non li pigliavo io direttamente. E andavamo con la cesta del pane, la riempivamo tutta, poi ne ha mangiato il rizzo. Almeno sai che sono freschi, che sono presi in zona anche non al porto, capito? Buoni buoni. È tanto che non mangio la pasta ai ricci, o la pizza con i ricci. È buono. E io le prendevo nella zona di Casa del Sardoli. Quindi da come entri anche a piedi li puoi prendere. Tutto bene. Poi è bello quando ti capitano, quando ti capitano quelli pieni, che ogni linguetta ti riempie il cucchiaino, ohia! È un po' buono. Tu non sai la differenza tra la cozza bianca e la cozza rossa? Francamente no, o se la sapevo me la sono dimenticata, dimmi. Quella bianca è il maschio e la rossa è la femmina. Ah, ecco, quindi con le cozze pallide, particolarmente pallide, sono i maschi, da. Forse lo sapevo mille anni fa, adesso me la sono dimenticata. Cosa ti volevo dire di ricci? Che dico, almeno uno se se li prende per il proprio conto, sa che sono freschi, sa la zona dove li ha presi, non come quelli che dopo il sottopassaggio di Santa Maria, è presente, vicino al distributore si mettevano le domeniche mattina con il barattolo di ricci lasciati al sole, poi certi erano anche visibilmente allungati col tuorlo d'uovo, hai notato? Sì. Quelli avevano il baracchino, non c'era una motocarrozzella. Guarda, non mi ricordo proprio il mezzo, ricordo però tipo un tavolino così posticcio con questi ricci lasciati al sole, cioè magari poi li congelavano o li rimettevano in frigo, il giorno dopo ritornavano a metterli in vendita, per carità. Io guarda, li compravo a Porto Torres da un pescatore che era affidato, capito, che me li dava proprio buoni ed erano ricci, non era allungato né niente. Ci vedevano le lingue dei ricci, capito? E me ne dava un barattolino di quelli da 80 grammi, me lo dava, mi pare, 8 euro, 9 euro, una cosa del genere. Ne prendevi due, la pasta diventava proprio bella condita. Ciappa. Poi il profumo, anche quando li pulisci, no? Belli, li sciacqui nell'acqua, il profumo è meraviglioso. Bei tempi, vabbè. Sì, ma l'unica è mangiarla al mare, aspetta che c'è stato un break, Marco, va. Ciao Angeli, da Alghero. Io sono Gianni Doppio Rum che ti saluta e poi c'è anche Marco Condor. Però stai arrivando basso, come mai Angeli? E allora, cosa sei combinato Angeli? Sta arrivando con un Santiago di 5, non so come ti arrivi io sono lì c'ho lo stesso. Santiago 5 qua stai arrivando, non so se ti ascolta Marco Condor, avanti Marco. Avevo lo squelciato, adesso l'ho tolto. Ma chi è? Ho detto Eugenio d'Alghero. Angelino. Angelino, allora vieni avanti che ho tolto lo squelce. Qui è Marco da Sassari. Allora. Appena c'era sempre su quel palo dove l'avevi piazzata. Vabbè, comunque dovresti metterti qualche cosa per arrivare più forte, se c'hai ancora l'attrezzatura. 8 e mezzo. Allora l'amico qua arriva 8 e mezzo, diciamo non è male, contando che sotto c'è propagazione ma c'è elogi. Vai, riprendi, sei copiato. Caspita, già sento della propagazione che quasi me lo copre. Gianni? Angeli, sì, ho sentito Marco. Angeli, ma stai sempre modulando da quella, diciamo, da quella casupola che ti avevi fatto? Caspita, me lo coprono di radio, quasi. Credo di aver capito di sì, che sia affermativo. Gianni, tu l'hai copiato meglio, perché qua è un macello, eh. Anzi, sembra che come siamo entrati, stiamo entrando in propagazione sul 10. Magari stanno pure chiamando, chi lo sa. Ma io lo sento ancora, Gianni, meglio vieni avanti. E Nadia, il bambino, come sta? Quanto c'è adesso il piccolo? Cavolo, sembra io. vabbè, dai, già la soddisfazione, dai. Avanti, Marco. Ehi, io volevo dire, io sono attaccato, altrimenti con questa propagazione non mi copierebbe. No, io non ho più nulla da attaccare, sono liscio liscio come luglio. Anzi, adesso se magari attaccolato mi sente meglio, col coda, sicuramente arrivo meglio. Angelino, tu sei con quanti watt, si può dire? 4 watt. No, non tu, Angelino, quanti watt ha? Sei normale oppure? Ci ho risposto per lui, l'ha detto poco fa che è con 4 watt. Per quello un po' che me lo coprono. No, credo stessi rispondendo tu già, purtroppo me lo coprono, c'è anche come una portante muta in propagazione, presumo in propagazione, o in baramobile o in propagazione. E quindi Angeli ti è rivenuta la buia, sempre l'autista stai facendo. Angeli. Pensa che io se parlasse non lo copierei al momento. No, non ho copiato manco io, Angeli non ci sei. E adesso ci ho detto gracchiante, come hai fatto? Stai gracchiando, fallo scaldare prima la linea, Roberto, perché stai gracchiando, adesso si sente benissimo, ma la voce è gracchiante. È un allineato, tu lo senti Marco adesso con l'amplificato? Sì, diciamo è aumentato poco, è arrivato a 9 anziché 8 e mezzo, ma è vibrato di modulazione. C'è qualcosa da rivedere. Ti volevo dire, l'altra notte io non potevo parlare perché era tardi, per non svegliare mamma. Ho sentito un'altra stazione d'Alghero che stava parlando con Antonello Pomponio, però era di notte un po' tardi. Mi pare abbia detto Rocky 2, una cosa del genere, può essere, ma va bene mi anche. Tu Angelo, conosci a Rocky? Ho capito. Io d'Alghero non ho sentito più nessuno, da quando sei mancato tu che non stavi più modulando non ho sentito più nessuno. Tranne, vabbè, ci abbiamo un amico che viaggia, che lavora all'aeroporto e qualche volta chiamava, adesso non sarà più messo in macchina. Carlo, sto dicendo a me, Marco, capito? Ma Carlo è sparito, non entra più. No, no, già entra, che non c'ha più la cena sul tetto, un sacco di storie, capito? Quindi praticamente si è trasferito di casa, quindi deve piazzare l'antenna dove si è trasferito. Ah, per quello. Va bene. Ho già il bip, ti ricorda quello del 48 colt, breve breve, è acuto, mi? Sì, sì, sì, è uguale. Praticamente l'ho regolato qua dall'apparato, ho messo la frequenza 2500 Hz e 100 millisecondi di durata, mentre quello del normale tuo, quello di 3900, dura 250 millisecondi. Va bene, Angelino, se mi copri, riprendi. Io stacco che vado a fare il caffè. Bianco per me. Calma. Va bene Marco, dai, ti aspettiamo. Bevi lo piano, perché il caffè se ti va di traverso ti fa tossire. mi devo limitare al decaffeinato già. Io posso permettermi solo un caffeinato la mattina, quando pure lo prendo. Il resto a casa sto facendo 90% decaffeinato. Che se no il cuore si lamenta. No, io ne prendo due, anzi ne prendo tre, perché faccio colazione la mattina, faccio il cappuccino, poi dopo pranzo e poi la notte prima di andare a dormire, dopo che cena mi prendo il caffè. Eia, va bene, riprendete a dopo. Va bene. Ho detto, Antone, stai sempre lavorando con il camion? Ah, e dopo? Ah, ho capito. Tipo la guardia armata? Ho capito. Vabbè, su vale. Sì, penso di sì. Io non l'ho mai cambiato. Io ancora li ho tutti presi lui, tutti presi. È successo un casino al telefono, mi si è bloccato, non riuscivo più a mandarlo avanti, rimaneva sempre su questa voce strana. Praticamente quando sono riuscito a ripristinarlo ho perso tutto. E cosa fai? Anche notturni, Antonio? Ho capito, dai. Vabbè, Angelica, quello che passa al convento. Sono un po' di sacrifici come orari, però ho un amico che lo fa lo stesso. Adesso gli avrò pagazione che c'è. Proviamo l'FM, ce l'hai l'FM, Antonio? Ma Angelica, Angelo, l'FM ce l'hai? Oh, ecco qua. Che va? Lo so, Angelino. Ui, mi rattrizzassi. Beh, no, qui. Vuole fare pronto. Ciao. Come siete qua? Sono 10 siamo. Dove siamo? Bene, FM. Name. Name, sì. C'è un casino qua, Devo riconoscere tutti, scusami, ma è addormentato, è la voce strana. Sì, ero divanato, Gianni, con la buonasera. Ho detto, come mai siete qua con questo bailone che c'è? Perché eravamo qua da poco fa e adesso è aumentato, infatti stiamo aspettando che rientri Marco, che è andato a prendersi il caffè, perché così lo avvisiamo e andiamo nel freddo. Perché sì, è vero, è un casino. Vabbè, era abbastanza alto e adesso si è abbassato un po'. Infatti non è fisso, però disturbo. Quando c'è Angelino D'Alghero, che a volte scompare quando c'è quel rem. Lo copi tu, Angelino, prova a vedere. Io quel rem a 7, non lo so se arriva qua, io Alghero ce l'ho negativo, eh. Angelino, mi ascolti? Già, io non lo sento, Ti ha detto che ci sento, Santiago 5, mi pare. Vabbè, è un casino, infatti Antonio, io stavo pensando di andare in FM e poi ci seguirà Marco, perché qua è un casino, non si capisce nulla, prova ad andare in FM, ce l'ha l'FM. Non si sente più. Ma passa l'FM! Ma c'è l'amplificatore, non c'è? Sì. Senti l'amplificatore, così lo sei. Ma se un po' più, ma non è che non arriva un po' più alto. Ecco qua, che stazionare a uno, manco di lui. È buono, ma è... Come frequenza del ferro è buono. Anche là, però, non si muove più più di me, credo. Lui in Italia ce li ha, però, non stava facendo uscire male via radio. Usciva con quattro attrati, è graziante. Ah, ma di lì, non te l'ho capito che sta a fare un tiro. Ah, ho capito. Allora, perché c'è lui che è 231, ma non c'è lo spettore per attaccarlo, quindi non può metterlo, che ha pagato. No, ma si sente che si è attaccato, così devo avere un bel riguardo. Ho capito. Ma non c'è così di là. Allora, riesce bene, sì, è forte. All'inizio non ti stavo riconoscendo perché avevi la voce drummita, magari il sicuro cappagappa, sì sì, ma sempre la realtà è me, e vabbè, va bene, vabbè, quando si tratta di aggiornarsi e di provare, vabbè, sempre bene, brutto quando non c'è nessuno, è brutto quando tu accendi la radio e non trovi nessuno, poi è brutto. Allora io più grande non ne ho, ho solo la 27, perché se va sul terrore poi praticamente la 27 la lascia perdere e praticamente si spoppa. Secondo me il mio ragionamento è quello, meglio avere la 27 sta lì e basta tutti qua. Se ti vedi che la mondiale sul terrore non va più 27, quindi è una cosa un po'. Ah, pure così. Ma guardi, Angelino, ci sei? Cosa di? Saremo, cosa ti posso dire? 6-8 persone, non di più. Luca ogni tanto entra. Non credo, non ho più sentito perché stavo durando le altre frequenze, con le radio amatori, quindi non sta più entrando, non ci sei. Sì. Ma vabbè. Adesso Archettino si prenderà la pacchetta tra poco. Adesso Archettino se la prenderà la pacchetta tra poco. Come ce l'hai già? Ehi, di là, quella di Radio Amatori, anche io. Sono come te, non mi interessa mancare. Anche perché praticamente ho anche a fare chi dove si poteva ascoltare, cose, tutto per un po' mi annoio, troppo seriose come frequenza. No, a me mi piace un po' e un po', mi piace sia una cosa che l'altra. Sì, io non voglio parlare anche di antena, perfetta, è sempre bello sapere, informarsi, eccetera, però mi piace anche. Mi sembra un bel robot, capito? Devo rispettare sempre le sue certo. Ma è un fatto di ascolto, io auguria. C'ho la ricetta anche l'ascolto io da tanto tempo. Ho fatto di ascolto. Un po' mi ha stufato, dai. Prima si ascoltavano diverse cose interessante. La mia incorniciata è appesa davanti alla stazione. Sì, ma infatti il nuovo ci tiene, magari mi piace metterla in evidenza. Come ci sono tanti che mettono i diplomi, questo, quell'altro, e quindi a me piaceva averla. Allora non c'era bella, non tutti la ricetta d'ascolto, era obbligatoria. Adesso non è più obbligatoria, ma perché non devi avere manco più, come si dice, la ricetta per modulare, non c'è più bisogno, non si fa più nulla, adesso siamo tutti abbandonati a noi stessi, avanti, Angelina, basso basso, c'è bello anche me, aspetta che provo a attaccare l'altro apparecchio, vai. Beh, c'è più nessuno. Oh, Marcolino. Oh, tiramuscolo. Ma state parlando con cosa? Con Alghero? Poi io sento QRM bu. E eravate passati in FM, là. Me ne sono accorto, cioè, arrivando qua. Marco, io non lo sento. Io non lo sento Alghero. Magari lui mi ascolta, ma io Alghero proprio. io non riesco a prenderlo fuori, anzi avevo voglia di sapere quanto arrivavo da lui, che però non riesco a sentirlo, forse Gianni sì, sta cambiando parecchio se non sbaglio. No, l'ho già cambiato, Tino, avanti Gianni. Allora, io non lo copio di radio, qua in FM non migliora, ma perché? Perché c'è troppo belame, il sabotto di fondo, e sotto di lui praticamente c'è di tutto. E poi Tino, lui sarebbe anche buono di segnale, 8:30. Il problema è che c'è un macello oggi, in tutti i canali. Tino, come mi senti? Un po' di sottofondo, però già adesso la portate bene. Gianni, chiedi a Angelino cosa si ascolta, e come li ascolta e quanto li ascolta, perché sto provando una radio differente, dai, diciamo. Non sono più con l'LK, sono con la TR5-5. Angelino, ascolti a Tino Muscolo, gli puoi dare un controllo, come lo ascolti? Andiamo 9, radio 5 è perfetta, a te. Intanto, 9, radio 5, va bene, ora c'è una FM. Poco fa ascoltava 7.5, quindi. E invece io, Angelino, come ti arrivo lì con la zona? La radio Cupa senti? Io già, rispetto all'altro sì. Ah, vabbè. E questo qua è quel microfono che avevo comprato insieme. È buono come microfono. Boh, è strano, aspetta che vado a passare, guarda a vedere se si è migliorato. E magari era l'effetto stanza. Già, no, non è male, dai. Calla gara, questo qua è il Cobra S. No, quello lì l'ho venduto, ce l'avevo, l'ho venduto. Questo qui è il Cobra. Questo qua è un signor apparato, costava 700 euro nuovo. Ma è quello nero? Sì, quello nero, il Cobra nero, quello che esce con 30 watt in AMFM e 100 watt in banda laterale. Quello che era una roba centrale, grande, centrale, giusto? No, non è la base questo qua. No, no, la volta dei canali c'è la laterale, a destra. Ma tu non forse stai utilizzando la TR5005 per caso? Allora, proprio quello no, sto usando il fratello più piccolo, la Linco DX10, che trovi anche marcato 135 DX, CR8009, tutto più piccolo, più basso, meno largo, meno profondo, però sostanzialmente è uguale. Sì, bene, lo conosco. Non è quello, a parte che non è spigoloso, diciamo, e negli angoli è un pochino più sfondato, se non mi ricordo male. Sì, guarda, gli spigoli frontali che sono stondati, esatto. Diciamo stondati non con un angolo acuto, però sì, sono smussati, già hai capito. E questo a meno watt, tutto lì, mi pare siano 12 AM e 24 banda laterale. Ma tanto io sto usando 4 watt e poi l'aiutino, se no col cavo che mi ascolta Malghero. Sì, anche io, vabbè, anche io non ho... Alghero c'ho proprio negativo, io non sento... Neanche in VHS, quando faccio ascolto, gli amici di Alghero li sento molto bassi, però vabbè. Va bene così. Io comunque se vuoi andare a vederlo, il Cobra GTL 200 DX. Aspetta, dimmelo. Cobra GTL 200 GX. 200? G come Genova. GTL DX. DX praticamente, 200 GTL DX. Sì, dopo guardo che ho il PC impegnato, poi lo guardo. No, mi ricordo che tu avevi preso quello nero con la Cobra con la monopola centrale, se non mi sbaglio, oppure una sorta di split tipo triangolo, però mi ricordo così. Sì, quello era un altro tipo di Cobra, quello lì è Cobra omologato. Era bello come estetica, ma come resa a me non mi piaceva, sinceramente. L'ho venduto, poi Adesso c'è un bombolo quello lì. Sì. Ho capito. Vabbè, ci sono anche questo qua, questo è stato toccato, questa canale 525, dalla casa si esce, però io l'ho fatto un po', lavorare un pochino per essere compatibile anche con gli amplificatori, capito? Ah, gli abbassati il watt? Sì, io praticamente adesso sto usando mezzo watt di radio, che però va a spingere 140 watt lui, K, vabbè, lo puoi usare in casa, ma se lo devi mettere in macchina hai pochi watt. No, lui fa da zero, qui sono regolabili giustamente, li puoi dare 20, li puoi dare 15, li puoi dare 4, anche 40 li puoi dare, però io lo metto a zero, che praticamente lui a zero parte da mezzo watt, col picco PFP che va a 40. Ah, ho capito, ce l'ha regolabile, no, io pensavo che l'avessi fatto da dentro, se ce l'ha regolabile esternamente è un lusso, vai. È come c'è nel Galaxy la stessa cosa. Però anziché avere per dire che ne so 20 watt, che ne so, regolabili da 1 a 20, questo c'è da mezzo a 40. Ho capito. E lo puoi utilizzare con tutti i tipi di amplificatori, Sì, quello va bene. Va bene. Avanti Angelino, ci sei. Molto bailava quando parli, capito? Guarda che puoi risolvere con un po' di potenza. Scusa, non lo senti, c'è lo sovrumore. Mi avete provato in banda? No. Riesci a passare meglio? Io non l'ho proposto perché tanto poi quei baracchini sono tutti centrati sempre a membro di Sivugio. Complichiamoci la vita, ti mamma mia, non la giocherà, sono al buio, se no mi tocca accendere, fare, cioè io lo sento tranquillamente. No, mi dispiace, però purtroppo può capitare che lei lo sopravvuto, ma non perché lo voglia, quindi non me ne vogliate. Va bene, vi ascolto un pochino, così faccio due cose al PC. Siete ancora già dentro. Vi saluto, mi ha fatto piacere. Ciao Marco, ciao Gianni, ciao anche l'amico di Alghero che purtroppo non ho avuto modo di sentirlo comunque. Ed eventuale ascoltore, riprendi Marco. Ciao Tino, grazie di essere entrato, buon proseguimento di serata e ci sentiamo. Vai Gianni. Probabilmente adesso ho capito perché cupa la radio. Ciao Tino, ci sentiamo. Perché siamo in FM e questo è l'amplificato. Sì, magari di fare effetto rimbombo. No, ma non ti preoccupare, già è capibile. L'importante è che non parli magari troppo vicino o alzando troppo fa l'effetto stanza. Per il resto già andrà bene. Capagava. Avanti Angelino. Va bene, dai. Magari con 100 watt qualche cosa riesce a recuperare. Quindi Marco ce l'ha sempre attaccato, lui non sbatte. Sì, vabbè già, sai cos'è, finché siamo dentro Sassari è un conto, però poi se c'è qualcuno con questo belame di questi giorni, oggi poi non ne parliamo, sarà l'apparato, e non mi sentirebbero. Io ero rimasto all'epoca di... chi sentivo d'Alghero? Sentivo Giuseppe, buonanima. Sentivo Valerio, ma Valerio aveva un bel watt, ecco perché lo copiavo, se metteva liscio arrivava tipo 5, e chi altro? Roberto Tex, che poi è diventato l'animatore, però non ho più sentito altri dal vero, mai più, sarà per lui il QRM, però non... poi vabbè, ieri è entrato, trovate, è entrato Rocky, com'è, Rocky 2, Rambo 2, no, non me ne ricordo, con Antonello, trovate, era tardi io per non svegliare mamma, non sono entrato nemmeno a salutare, però lui vedi di notte senza il QRM arrivava bene, arrivava tipo 8, una cosa del genere, e la modulazione era eccellente. Oh, io di notte non posso parlare, solo di bussare il muro qua, è un casino, no, parlo di giorno e buh. quella notte, sì, sto su internet, dai, ho le compagne su internet, sto nei saluti. Ehi, ma anche se metti le cuffie e parli piano, per esempio, tipo così, tipo maniaco, se parli così piano non credo che ti sentano. Ti attacchi al mic, tanto c'hai le amplificate già. Ma si sentono, maledizione. L'altro giorno ho attaccato lo stereo. Alle 6 sono venuti a rompermi le palle perché il volume era alto, che non eravamo in discoteca. Ho detto, allora, sono le 6. Questa non è una discoteca, ma è casa mia. In casa mia lo vedo io cosa devo fare. Poi fai quello che vuoi, registrando la IA nelle facce, devo girarmi le balle. Sì, cavolo, strano però già. Ma che pare ti avete in quelle palazzine? Qua... Boh, grazie a Dio non... no, però vedi, la mia camera è messa dalla parte opposta degli appartamenti. Nell'altro appartamento risulta in questa camera, dalla parte opposta, e dalla cucina, ecco, l'unico punto che combacia è quello. Però vabbè, di notte anche parlando normale, nessuno si è mai lamentato, perché altro lo faccio per mamma, non tanto per la parlata mia, quanto per la ricezione, perché ho attacco le orecchie alla radio, cuffie e voce l'avevo, non so dove siamo finite, poi avevo perso l'adattatore mono, da mono a stereo, è presente, per sentire da tutte due le orecchie. Sì, io ce li ho tutti quelli adattatori lì, li ho diversi, niente, e quindi capito, non puoi fare un cacchio qua, te lo porto subito le palle, quando mi ha detto che noi stiamo vibrando la casa addirittura. Ah, ma uomo o donna era, se lo dovevi dirgli, ascolti, se le piacciono, se ne approfitti, se le piacciono le vibrazioni, ne approfitti. No, era un uomo, rompiballe. E tutti hanno un vicino rompiballe. Ma io continuerò a fare quello che devo fare, la mia vita me la devo vivere, adesso devo farmi la doccia, no? E adesso mi ascolto un po' di musica di qui, avevo praticamente tutta la raccolta, no? Nei CD, ho messo due CD perché mio ne può contenere 16 CD e automaticamente come finisce uno mette l'altro, ho detto così almeno mi faccio la doccia e mi ascolto la musica, mica è venuto a rompere le mani, mi ha rovinato la serata. Mamma mia, quando è così il condominio, per carità. Allora, rialzi ancora l'amico di Alghero, Valerio, porca miseria, non mi ricordo, no. Mi puoi confermare il segnale in FM, vediamo un po', che non ci sono picchi. Angelino. Angelino, già, mi puoi fare da ponte. Radio 9, Radio 5. Radio 9, azzo, allora eccellente. Radio 9, Radio 5. Sì, ho capito, gliel'avevo sentito, Angeli, non ti preoccupare, non c'è problema. Ma Marco ti dovrebbe sentire meglio, se gli arrivi più forte ti dovrebbe sentire, Marco, ma non lo so. Già, c'ho questo QRM a 8, 7, 8 oscillante. QRM o propagazione, ma non solo qua, anche in altri canali, dipende. Certi canali sono silenziosi, certi no. Mi pare che il 14 sia più silenzioso, aspetta il controllo. No, ho parlato troppo presto. Marco, qua tu sei, una telefonata, non si sente né QRM né niente, non ho neanche abbassato lo squelch, ce l'ho tutto aperto. Sei una telefonata, probabilmente hai il microfono che si adatta di più alla FM, capito? Perché con i microfoni normali l'FM si sente meglio. Sì, eppure qua se vedi questo microfono è come quello originale del 5005, quello che è. Se vedi la capsula dentro ti viene da ridere, è una capsuletta da due citti. Il problema è che questo apparato ha 6 poli, 6 o 7, non mi ricordo, e credo di non avere nemmeno l'adattatore per questo apparato. Ce l'ho per il 7009, l'adattatore, per il quell'altro, adesso non mi ricordo come si chiama. Però qua, se non corrisponde alla piedinatura, rischio di fare danno. No, io non ne ho mai messo di adattatori, io ho sempre cambiato lo spinotto e messo quello originale, così almeno non sai, magari ti balla, ti fa, passi contatti, invece mettendo il suo spinotto originale, va meglio, dai, io accendo tutti così, non mi piace, almeno esteticamente mi piace avere prolunga. Ma sai com'è già, poi, cioè se faccio il cablaggio, per esempio l'MB più 5, oppure l'altro, il KPO, cioè se faccio il cablaggio per il 3009 o 5005, che è uguale, non lo posso usare né sul President, capito, volevo compatibilità col numero maggiore di apparati, per quello per alcuni ho dovuto prendere l'adattatore. Ma tu pensa che il 7009 ha l'attacco microfonico RJ45 come i B-banda VU? Yes. Allora io praticamente per tre apparati ce l'ho tutto uguale gli attacchi, solo per Ruiz ce l'ho diverso, ma allora se voglio provare qualche altro microfono, perché questo Ruiz secondo me si sente una specie di, come ti posso dire, come se ci fosse un corto, ogni tanto e se tocchi il microfono non lo fa più, tocchi lo spinotto del microfono non lo fa più, e ho paura che magari non si adatti l'impedenza. Voglio provare qualche altro microfono che si possa adattare, ne ho diversi di microfoni, quindi posso anche sbizzarrirmi a provare. Deia, che poi mi, alla fine dei giochi, se il mic originale va bene, lascio sempre quello. Sempre mi scoccio con gli amplificati, o troppo forte, capito, ma vabbè. È un'opzione così. In SSB vanno meglio per dare più watt manda laterale, no? Per pilotare meglio anche altro. Va bene, io rilancio Angelino, ma già io devo staccare, visto l'orario devo fare delle cosette in casa e devo staccare. E ci sentiamo quando capita, ok? Vai Angelino, queriti per me. Dai, ciao Marco, dai, ciao Angelino, chiudo anch'io, dai, che devo portare giù il cane. Ci sentiamo, tu il cane ce l'hai ancora, sì. Non ti sento più Angeli, dai, se mi senti ritieniti salutato. È vero, non arriva nemmeno più qua, cioè non c'è la modulazione proprio. Va bene, dai, ciao a tutti, anche l'ascoltoni, ciao ciao. Ciao Marco, ciao. La corretta di Osino, avanti cambio. Allora, ciao Oriano, Oranio, parli un po' come questa parte da Sassari. Ah, ok, la modulazione non mi pare nuova, però non mi ricordo il numero attivo. Antonio da Sassari, Antonio il Pombo, Gappa. Allora, come i picchi negativi c'ho di Santa Cosa? Sta uscendo, qua c'è il segnale di 6 con picchi. Con picchi positivi a 9.10, non so come ti sto arrivando io lì, a te il cambio sempre con la buonasera. Ecco, non si è sentito nessuno, ora. Come i picchi negativi, ciò. Ora, negli strumenti. Non c'è la stazione un po' alta, boh. In effetti, ora. A 9.10 ho detto, non so come ti sto arrivando io, dammi il controllo a me se come sto arrivando lì da te, a te il cambio, buonasera. Buonasera, 7.68 Radio 5, Radio 5, qualche cosa Radio 5. Ah, è ok, va bene. Yeah, va bene, perfetto, tra l'altro tu stai arrivando un segnale di 6 con picchi positivi a 9.10, ok, la radio è 5, un pochettino anche amplificata e stai uscendo bene, dai, a te il cambio. Gamma gamma, dai. Sì. Boh, mi ritorno un po' là con dietro dello strumento, ma ti ho preso una cosa. Comunque già va, dai. Già stai uscendo bene, dai, ok. Dopo se c'è picchi positivi, boh, dipende. Dipende anche se c'è qualcosa sotto, cappa, boh, non lo so, io stesso. Qualche cosetta sto usando, ok. Niente, adesso mi stacco, ok, forse ho diminuito il segnale, anche di radio. Vedo un po' come sta arrivando adesso, a te il cambio. C'è stacchi, non si sentono il QRM, c'è stacchi. Ok, Roger, è perfetto, dai, ho riattaccato, dai. Ok, perché io per sé sono un po' chiuso a cappa, poi dipende anche dalla zona dove sei tu, lì a Sierra Sierra, in quale zona ti trovi? Io devo lasciare che sto cucinando, devo andare a mangiare il bambino pure. Comunque mi ha fatto piacere, non ho perpetrato nessuno qua. Molto prima di adesso c'era qualcuno lì, c'era doppio room e l'altro non mi ricordo il nome dell'attivo, dai. E comunque c'erano due o tre o quattro, mi pare. Dopo hanno chiuso perché qualcuno doveva fare qualcosa in casa, l'altro non so cosa e via dicendo, hanno chiuso, dai. Ok, va bene, allora buon proseguimento di serata, grazie delle due chiacchiere, grazie anche del controllo. Ci sentiamo, buon proseguimento di serata, ok, a te il cambio ancora, anche per me diciamo corretti, dai, ok, a te il cambio. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao.